9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, Oscar Genio torna ad augurarvi un buon mercoledì 11 novembre e oggi abbiamo con noi, e sono molto lieto di questo, il ministro della scuola dell'università Maria Stella Gelmini. Vi dirò perché sono molto lieto che sia con noi, perché su tre punti minoritariamente dichiaro il mio punto di vista. Lo sapete che sfido sempre la corrente maggioritaria, anche di voi ascoltatori di Radio 24, che non siete meno cattivelli di altre radio, non perché questa è la radio di Confindustria, ovviamente siete meno cattivelli, però su tre punti io vado un po' in minoranza e mi piace quindi questo ministro più di altri ministri. Perché? Perché io sono convinto che la formazione, la scuola, l'università siano certo valori e sistemi pubblici di grande importanza per i valori dell'uguaglianza e l'opportunità che devono esercitare. Questo non significa che debbano essere di Stato, perché pubblico non significa di Stato. Secondo, sono convinto che nella formazione, nella scuola e nell'università, il più dell'attenzione deve andare alla qualità del servizio di formazione offerto e alla scelta delle famiglie. Non, ripeto, non, e sottolineo per la terza volta, non, l'attenzione preminente non va data invece soprattutto e solo, anzi quasi, ai problemi di chi ci lavora nella formazione, nella scuola e nell'università. In Italia mi sembra che si faccia da molti anni questo secondo punto. Terzo, sono per un meccanismo di formazione che contro la licealizzazione e l'universitarizzazione aperta a tutti, uguale per tutti, che si è risolta in un mito perché siamo meno in condizioni di esercitare l'ascensore sociale per tutti, per una formazione invece più vicina anche al modello tedesco, cioè più vicina al mondo produttivo delle aziende, più vicina a esperienze miste. In Germania così si è fatto nel secondo dopoguerra e i risultati sono molto migliori dell'aver invece rincorso l'abbattimento del sistema, diciamo, del vecchio impianto dell'Italia liberale, come abbiamo fatto noi, sostituendolo con un'immaginaria accesso uguale a tutti e con l'appiattimento dei percorsi formativi. Questo ha bloccato l'ascensore sociale nel nostro paese, non lo ha certo reso più agevole. Risultato: la dotazione patrimoniale delle famiglie di partenza ancora oggi in Italia è il vero moltiplicatore delle possibilità. E a differenza di quello che avviene in altri paesi, invece, chi viene dal basso, dalla formazione e dall'università di Stato, non viene molto aiutato come negli altri paesi ad avere più chance. Punto, fine del mio postulato iniziale in tre punti minoritari. Buongiorno al ministro Maria Stella Gelmini. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo a esaminare un pochino le questioni maggiori del disegno di legge di riforma dell'università, sì, che ha recentemente presentato. Io comincerei, guardi, ci sono tre aspetti, mettiamoli in tre blocchetti. C'è un blocco che riguarda la governance dell'università, sì, c'è una questione che riguarda la selezione dei docenti e poi arriveremo al terzo punto. Comincerei dal primo. Io ho avuto spesso, sì, l'impressione che in Italia, da una parte l'università l'autonomia, e dall'altra però in questi anni chi è la testa dell'università e il rettore dicono: sì, noi vogliamo essere autonomi, ma vogliamo innanzitutto più trasferimenti pubblici. In questa forbice c'hai tra i trasferimenti limitati, perché la finanza pubblica è quella che è, e dall'altra la necessità di rendere più responsabili e più capaci di scelte libere, il disegno di legge in che direzione va? Direttore, lei ha toccato il punto centrale. In questo paese ha perso molto tempo nel lamento per non avere abbastanza risorse e nella difesa dell'autonomia. La verità è che oggi noi abbiamo un'autonomia malata, perché questa non si coniuga con la responsabilità. Quindi autonomia vuol dire che ciascuno fa un po' quello che vuole, non risponde dei risultati che siano buoni o cattivi e si limita a chiedere ogni anno più soldi nel fondo di finanziamento statale. A cosa ha portato questa situazione? Ad una difficoltà strutturale sul piano economico delle università, del sistema universitario nel suo complesso. Allora noi cosa proponiamo con il disegno di legge? Una cosa molto semplice, cioè quello di coniugare l'autonomia, che va rispettata, perché certamente noi non vogliamo ritornare ad un centralismo ministeriale che già paghiamo in ambito scolastico, ma pretendiamo che l'autonomia si coniughi con la responsabilità e con la trasparenza nell'utilizzo delle risorse, perché non è pensabile che, come lei diceva nella sua eversiva introduzione iniziale, si possa pensare che la qualità corrisponda ad un aumento delle risorse investite. Non è così. L'aumento delle risorse negli ultimi anni ha coinciso con un aumento del numero dei corsi, degli indirizzi, degli insegnamenti, ma tutto questo ha portato ad un abbassamento degli standard qualitativi qualitativi medi. Quindi noi crediamo che il denaro pubblico vada speso in maniera opportuna, che le università debbano avere una gestione trasparente, che ciascuno debba rispondere dei risultati che consegue, che anche all'interno di un sistema pubblico, di un'istituzione per eccellenza come l'università, i bilanci vadano formulati non facendo il passo più lungo della gamba, ma valutando le risorse e scegliendo le priorità. Oggi, Ministro, questo non avviene. Le faccio un'osservazione che sicuramente non piacerà troppo a molti rettori, ma perché non immaginare, lo dico apposta sapendo che appunto si è immaginato, un meccanismo per cui i rettori, insomma, i responsabili dell'autonomia universitaria, se non riescono a mettere i bilanci in regola entro un tot anni, ma un numero breve, vengono commissariati e mandati via, un po' come si fa con la sanità per rimettere in riga i conti. Noi in effetti il disegno di legge va in questa direzione, nel senso che noi non vogliamo chiudere le università, anche perché la razionalizzazione del numero delle università deve andare di pari passo con una politica concreta di diritto allo studio, che oggi ancora una volta il nostro paese non è in grado di offrire agli studenti. E per questo abbiamo previsto due meccanismi. Il primo è quello di una riprogrammazione regionale che non è stata fatta, perché al limite si è ragionato su scala provinciale. È bene invece che si ragioni di un'offerta formativa costruita su base regionale, e da qui l'ipotesi offerta ai rettori di fusioni o di federazioni fra atenei. Ma è chiaro che laddove ci sono dissesti finanziari pesanti, noi applichiamo le stesse regole della sanità, cioè il commissariamento, e prevediamo all'interno del disegno di legge anche un limite all'indebitamento dei singoli atenei. Non si può ascrivere alla finanziaria dell'anno scorso problemi di tipo finanziario ed economico che risalgono a 10-15 anni fa. Credo che ci voglia onestà intellettuale. Noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma credo che così non si possa andare avanti, perché il risultato di un mancato stop a questa modalità di gestione sarebbe l'inevitabile aumento delle tasse. Noi non crediamo che questo sia il momento per aumentare le tasse universitarie, visto che c'è crisi, visto che le famiglie sono in difficoltà. Vogliamo risparmiare laddove è possibile per una politica vera di diritto allo studio, che significa borse di studio, significa applicazione del principio costituzionale che dice che anche gli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, devono poter raggiungere i livelli più alti di istruzione. Ma per fare questo non è che splafoniamo sulla spesa pubblica, cerchiamo di utilizzare meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Agli ascoltatori che hanno iniziato, come prevedevo, signor Ministro, a sommergermi di sms dicendo che cos'è questa difesa della scuola privata, io vi invito ad aprire le orecchie. Ho detto che sono a favore del sistema pubblico, e questo non significa per forza di Stato. Poi a chi mi fa notare la scuola privata perché dargli i soldi dei contribuenti, visto che a punti di vista soggettivi, no, nel sistema pubblico della formazione, perché i soggetti possano rientrare nel sistema pubblico, significa che devono essere certificati i loro percorsi formativi sui quali si esercita la vigilanza pubblica. Questo lo possono fare i soggetti privati insieme a quelli di Stato, e questo costituisce insieme il sistema della formazione pubblica. Finché nel nostro paese non ci abituiamo a capire che pubblico non significa per forza di Stato, e finché, mi dispiace cari ascoltatori, molti di voi penseranno che la parte pubblica non di Stato è quella che appunto di vista soggettivi, mentre secondo voi nella scuola e nell'università di Stato si insegna l'oggettività, vuol dire che c'è una confusione di fondo su che cos'è l'università di Stato, la scuola di Stato. L'oggettività non esiste perché c'è un timbro di Stato sopra. Mi scusi signor Ministro, ma è un percorso di polemica continua. Se posso, direttore, siccome su questo tema ogni giorno mi scontro nel mio lavoro come ministro, mi permetta di fare una battuta. Anche con riferimento al disegno di legge, una delle accuse che vengono mosse è riferita alla privatizzazione dell'università. Io lo ribadisco: aziendalizzazione, dicono addirittura. Sì, aziendalizzazione, privatizzazione. Ecco, io vorrei puntualizzare anche in questa sede che da parte del governo non c'è alcuna volontà di privatizzare. Ma non è che quando le risorse sono pubbliche sono di tutti e quindi si spendono male e ciascuno può fare quello che vuole. Così come all'interno della scuola, questa divisione quasi con un tifo calcistico fra i difensori della scuola pubblica e i difensori della scuola privata ha portato ad uno stallo sul piano delle riforme. La verità è che la scuola è sempre pubblica anche quando non è statale. E vorrei ricordare, siccome si invoca ogni giorno la Costituzione, il rispetto della Costituzione, giustamente, che la Costituzione difende la libertà di scelta educativa. Quindi il problema del governo italiano è quello di garantire una buona scuola a tutti i ragazzi, indipendentemente dal ceto sociale, indipendentemente dal luogo di residenza. Ma se continuiamo ad applicare nel nuovo secolo gli schemi ideologici del precedente, la nostra scuola andrà a rotoli. Noi abbiamo la necessità di compiere il percorso faticoso delle riforme. Mi riferisco per esempio alla riforma del reclutamento, cioè di come si diventa professori, e anche al tema della carriera, che riguarda i professori, riguarda i magistrati, riguarda gli insegnanti della scuola, i dirigenti pubblici. Non è pensabile che l'avanzamento sia legato solo all'anzianità e al trascorrere del tempo. Servono scatti stipendiali legati al merito, legati agli obiettivi raggiunti, con la possibilità di premiare chi fa bene e di punire coloro che invece non lavorano o non raggiungono buoni risultati. Continuare ad affrontare il tema della scuola in termini ideologici vuol dire fare il male della scuola e non capire il momento che noi stiamo vivendo. Sono d'accordissimo, e anche perché io sono poi convinto che in gran parte questo tema venga sollevato per qualche resipiscenza di rigurgito anticattolico, perché diciamoci le cose come stanno, perché questo è uno dei temi di fondo della vita italiana, mentre la mia opinione è che anni fa andavamo verso toni di conciliazione, di convergenza, non so come dire, tanti anni fa Spadolini scriveva libri come Il Tevere più largo. Ho l'impressione che in questi ultimi 10 anni della società italiana invece ci sono di nuovo gli oltranzismi che alzano i muri, e questo secondo me proprio nella formazione aiuta poco. Andiamo avanti. Stavamo toccando il tema delle risorse universitarie e del merito. Questa idea del fondo per il merito, che c'è un disegno di legge, che cos'è? Sì, è un'iniziativa che abbiamo messo a punto con il ministro Tremonti, e che vuole proprio posizionare una parte delle risorse per sostenere direttamente gli studenti, quindi aiutarli attraverso borse di studio, prestiti d'onore. Abbiamo aperto un tavolo anche con il sistema bancario, che poco fa sul piano dei prestiti d'onore, che invece rappresentano un meccanismo assolutamente diffuso in molti altri paesi europei. Poi vogliamo affrontare anche il tema del caro affitto per gli studenti nelle grandi città universitarie, il tema delle residenze universitarie. Insomma, serve, a mio modo di vedere, un aggiornamento, un ammodernamento del sostegno agli studenti o del diritto allo studio. È chiaro che questo tema impatta con competenze regionali, ma io non credo che si debba perdere tempo nella conflittualità, nelle rivendicazioni delle competenze. Questo è il momento di condividere le responsabilità, ciascuno faccia la propria parte. Quello che non deve più accadere è che la maggior parte, come in alcune regioni accade, dei fondi sul diritto allo studio vengano impiegati queste risorse per la struttura burocratica. Cioè, noi dobbiamo ridurre al minimo le procedure e fare in modo che le risorse vadano direttamente agli studenti, e occorre uno sforzo complessivo nel determinare la costruzione di questo fondo per il merito. Ora, un altro dei punti più delicati sui quali poi arrivano telefonate, cioè il riordino dell'abilitazione, della messa in ruolo e la soluzione del problema di questa categoria dei ricercatori che noi avevamo a tempo indeterminato, ultra cinquantenni e così via. Su questo come si interviene? Allora, si interviene innanzitutto evitando gli accordini locali, i concorsi qualche volta, non voglio dire spesso, ma insomma qualche volta combinati sul piano territoriale. Noi introduciamo l'abilitazione nazionale a numero aperto e diamo maggiore potere decisionale alle università, che possono scegliere i professori. È chiaro che però le risorse alle università non saranno più date a pioggia, ma sulla base della qualità dei risultati raggiunti. Quindi, se un'università seleziona bene il proprio corpo docente, avrà maggiori risorse. Se cederà alle raccomandazioni, ad un appiattimento verso il basso della professionalità dei docenti, avrà meno risorse. Quindi credo che questo sia l'incentivo più forte. Per quanto riguarda i ricercatori, noi abbiamo nell'università italiana un problema di un ricambio generazionale, perché l'università, che dovrebbe essere la sede per eccellenza della ricerca, dell'apertura al mondo giovanile, oggi le dico solo un dato, direttore: si diventa ricercatori a 37 anni e poi associati intorno ai 44, e l'età media degli ordinari è di 50 anni. A me pare che sia una situazione francamente insostenibile. Noi vogliamo, attraverso il disegno di legge, fare in modo che si possa diventare ricercatori a 30 anni, che ci sia poi la possibilità di un contratto triennale e poi di un secondo contratto triennale, al termine di ciascuno dei quali ci deve essere la valutazione, e poi il ricercatore deve avere accesso ad uno scatto di carriera, perché rimanere ricercatori fino a 60 anni francamente mi pare che sia un non senso. Quindi il disegno di legge va nella direzione di dare centralità alla ricerca, di ringiovanire il corpo docenti e di rendere davvero autorevole il ruolo dei ricercatori, che oggi sono spesse volte bistrattati. Benissimo, intanto una telefonata da parte vostra, poi dopo la telefonata chiamo la pubblicità e poi continuiamo con il ministro che risponde. Andrea da Livorno, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti al ministro. La domanda che mi ero proposto è già stata parzialmente esaudita dal ministro. Io però penso che per fare quello che ha detto nell'ultimo intervento bisogna, uso un termine, passatemi la toscanità, eliminare fisicamente Baroni. Beh, fisicamente non si elimina nessuno, chiaramente è un eccesso, perché il vero problema, lo dico con cognizione di causa, essendo all'interno dell'Università di Pisa, il vero problema è questo, molto spesso legati, che si voglia dire o non si voglia dire, alla massoneria. E si sa già quando deve essere messo un primario di una clinica ospedaliera, nel mio caso, si sa già qualche mese prima del concorso chi sarà. Grazie, grazie Andrea. Il rampante viene fatto fuori. Grazie Andrea, io non userei il termine massoneria, perché vede, le cordate in un sistema in cui la cooptazione il vero principio per la messa in cattedra, non è questione di massoneria o Opus Dei, è il meccanismo della cooptazione. Quando il ministro diceva all'inizio concorsi un po' col criterio amicale, ecco, è la cooptazione il punto di fondo. Marcello da Roma, prego Marcello. Grazie, io vorrei esprimere la mia soddisfazione per larga parte del disegno di legge. Io faccio parte dell'Università della Sapienza da anni nell'ambito di un organismo. Si sente molto male, non possiamo, non pensi che la stronco perché stava parlando bene, ma purtroppo è molto disturbato. Riprovi a chiamare, vediamo se riusciamo a migliorare la qualità. Gianfrancesco da Roma. Buongiorno. Mi sente? Sì, anche lei non troppo bene, ma comunque se è sintetico proviamo a sentire meglio. Cercherò semplicemente di essere velocissimo. Ricercatore di 40 anni, da 10 anni insegno con supplenze, per motivi vari che non sto a raccontare, purtroppo il concorso d'associato non sono riuscito a superarlo. Pubblicazioni su tutte le più importanti riviste nazionali del mio campo. Che fine faccio? Beh, non ho capito, la domanda è: ho tutti i diritti, qualcuno mi mette al timbro? Credo che lei abbia il viva voce, quindi con il viva voce diventa complicatissimo sia sentirvi bene, comunque il tema è quello dei ricercatori, insomma, per quelli che sono nella vecchia posizione in attesa delle nuove norme che il ministro aveva spiegato, che cosa succede insomma? Beh, non c'è alcun pregiudizio delle loro aspettative e quindi procederanno come nella loro professione, come è sempre accaduto. È chiaro che le nuove norme entrano in vigore e valgono per il futuro. Dopodiché ci sarà la possibilità di optare, nel senso che la nuova modalità prevede contratti a tempo determinato e lo scatto di carriera. Si può decidere di aderire a questo nuovo sistema o diversamente di rimanere nel precedente. Però quello che vorrei sottolineare è che l'assenza di mobilità, di apertura, è un problema che noi affrontiamo nel disegno di legge. Innanzitutto prevedendo che ci siano procedure semplificate anche per i docenti di università straniere che vogliano partecipare alle selezioni per posti in Italia. E poi un'altra previsione del disegno di legge è che Per un terzo possano essere selezionati e premiati i docenti interni alla singola università, ma i due terzi dovranno essere esterni, perché non si capisce come un professore possa iniziare e concludere la propria carriera sempre all'interno della stessa università. Per quanto riguarda il tema dei baroni, noi prevediamo un termine. Oggi ci sono rettori che restano in carica anche più di 20 anni, e mi pare un tempo infinito. Il disegno di legge pone un limite di 8 anni, compresi gli anni già trascorsi, dopo i quali ci deve essere un cambio, quindi la nomina, l'elezione di un nuovo rettore. Credo che anche questo sia un elemento di pregio. Signor Ministro, abbiamo citato prima gli insegnanti stranieri all'interno dell'università. Sì. Le chiedo un tema, un secondo all'altro, con l'università non c'entra molto, ma è un tema di fondo della, sì, della formazione italiana, che riguarda proprio l'equilibrio, l'integrazione a cui, sì, il sistema pubblico deve mirare tra italiani e figli di stranieri o stranieri. Ecco, da questo punto di vista, noi siamo in realtà un paese troppo abituato a criticarci e un po' restio a riconoscerci dei meriti. Tutto sommato, noi non abbiamo avuto fenomeni di esplosione di intolleranza paragonabili a quelli che sono avvenuti in Francia e anche un po' in Germania. Ecco, lei è soddisfatta di quello che sta capitando nel sistema della formazione italiana, o bisogna introdurre un qualche principio forse? Perché in alcune situazioni del nord, dove la concentrazione di figli di stranieri è più elevata, certo molte madri segnalano che magari i loro figli stanno oramai in classi in cui sono assoluta minoranza rispetto agli stranieri. Bisogna assumere un principio fisso o la flessibilità caso per caso va bene, secondo lei? Ma guardi, io credo innanzitutto che vada riconosciuto alla scuola un forte impegno sul piano dell'integrazione, perché certamente è una funzione che negli anni la scuola, come dire, ha dovuto assolvere in maniera sempre più pressante e più importante anche in termini quantitativi. Detto questo, io vorrei fare una premessa, nel senso che non mancano moltissimi progetti legati all'integrazione. Penso per esempio a dei corsi di italiano che vengono tenuti il pomeriggio proprio per favorire la conoscenza da parte degli studenti immigrati della nostra lingua, senza la quale non ci può essere integrazione. Credo che l'introduzione dell'educazione alla cittadinanza possa essere utile per tutti i ragazzi, ma anche per quelli immigrati, per conoscere i principi sui quali si basa il vivere civile. Detto questo, concordo con lei quando dice che in altri paesi ci sono stati fenomeni di intolleranza, ma anche di bullismo molto più pesanti dei nostri, a significare che il sistema ha tenuto. Poi è chiaro che io penso che dobbiamo un po' interrogarci come paese sulla cosa significa integrazione, perché non si può nemmeno semplificare un processo che è inevitabilmente lungo e complesso, e occorre valutare ancora una volta la situazione in termini molto pragmatici. Noi per esempio abbiamo deciso dal prossimo anno di inserire il tetto del 30%, che tra l'altro è una misura che ci è stata suggerita dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti che si trovano ad operare in quelle scuole di periferia in cui la presenza di studenti immigrati è molto elevata. Il tetto cosa persegue? L'obiettivo di un equilibrio all'interno delle classi fra studenti immigrati e studenti italiani, perché è provato che laddove ci sono classi composte quasi interamente da studenti immigrati, quelle classi diventano classi ghetto, non ci sono le condizioni per l'integrazione. Io poi mi permetto anche di dire che dobbiamo stare attenti al tema dell'identità, nel senso che esprimo una mia opinione. Io non penso che integrare gli studenti immigrati significhi togliere il crocifisso, rinunciare alle nostre tradizioni, ai nostri valori per essere politicamente corretti. Questo determina un impoverimento della società, un impoverimento dei nostri giovani. Quindi occorre intendere il concetto di integrazione in maniera puntuale, non come, come dire, un appiattimento, una rinuncia a quella che è l'identità e la storia del nostro paese, ma al contrario è da lì che si parte per ritrovarci come italiani, come paese, nel pieno rispetto di chi pratica religioni diverse dalla nostra o di chi proviene da altre culture. Ma è chiaro che l'immigrato, che sia studente o che sia semplicemente cittadino, deve sapere che ha diritti ma anche doveri, e solo così si crea un equilibrio e si fa della vera integrazione, altrimenti si scade nel buonismo, in una forma di assistenzialismo che però aumenta paradossalmente il rischio della violenza e di una mancata integrazione. A proposito di cittadinanza, Costituzione, qualche giorno fa, pochi giorni fa, sul Corriere della Sera, il Ministro avrà letto un intervento, sì, molto ampio, articolato, di Ernesto Galli della Loggia, che a proposito di questo nuovo insegnamento dice che il Ministro si è un pochino fatto storcere la mano dai pedagogisti sotto il cui occhiuto controllo è la macchina del Ministero, e che questo insegnamento in realtà è volto addirittura alla creazione dell'uomo nuovo e che confonde quindi la conoscenza dei principi e delle regole fondamentali del nostro diritto pubblico, del nostro ordinamento, con l'idea che invece la Costituzione è intangibile, quasi sacra garanzia della costruzione dell'uomo nuovo. Ecco, quelle critiche che Ernesto Galli della Loggia svolge da anni nei confronti dell'eccesso di pedagogismo nelle cui mani sarebbe l'intero edificio della creazione dei presupposti e poi degli strumenti attuativi delle riforme della formazione. Ma guardi, io condivido con il professor Galli della Loggia la diffidenza nei confronti dei pedagogisti, quindi non credo di essere caduta in questo errore. Penso che, come anche su suggerimento del Presidente della Repubblica, sia stato un fatto importante introdurre la Costituzione, introdurre la conoscenza dei principi fondamentali, ma questo non nell'ottica di fare politica in classe o di piegare la Costituzione ad interessi di parte, quanto per offrire ai ragazzi la possibilità di una conoscenza appunto dei principi fondamentali della convivenza, che credo sia un elemento che fa parte del bagaglio culturale di una persona. Poi è chiaro che in questa materia, come nelle altre, ci sono sempre rischi di una politicizzazione, ma io mi auguro, e ovviamente il Ministero vigilerà su questo unitamente alle persone che ne hanno la responsabilità, perché l'ora di educazione alla cittadinanza sia veramente tale, non sia come dire improntata ad interessi di parte o a posizioni politiche. Benissimo. Questo vale per l'educazione civica come per la storia, come per moltissime altre materie. Sabrina da Roma, prego Sabrina. Buongiorno, io sono la mamma di un ragazzo che sta frequentando il primo anno del liceo, di un liceo che era considerato negli ultimi 15 anni sperimentale. Ora, secondo la riforma dei licei, l'anno prossimo l'offerta formativa verrà completamente stravolta e cambiata, quindi l'anno scorso mi è stata data la possibilità di scegliere questo indirizzo scolastico traslando di un mese la data, perché era molto nebulosa, l'offerta formativa non era assolutamente ancora in vigore. E ora vorrei chiedere, ma è vero che dall'anno prossimo questa offerta formativa per mio figlio, che frequenterà il secondo anno, verrà completamente stravolta? Grazie Sabrina. Che dice, signor Ministro? Che no, succede? Sarebbe interessante capire che tipo di liceo, se forse si trattava di un liceo tecnologico, non ho capito quale sia. No. Che tipo di qual liceo? È l'indirizzo? Che tipo di liceo è? È un liceo classico a indirizzo linguistico. Ma assolutamente no, anzi, noi con la riforma vogliamo potenziare l'insegnamento delle lingue, e mentre oggi ci sono licei classici che prevedono già dalla quarta ginnasia l'insegnamento della lingua straniera, dell'inglese, ma ce ne sono anche altri in cui invece lo studio dell'inglese è veramente ridotto al minimo e si fa solo per 3 anni. Con la riforma noi vogliamo che tutti gli indirizzi, quindi anche il liceo classico, abbia una presenza molto forte, siano potenziate le ore di lingua straniera. Quindi io mi sento di poter rassicurare la signora, e vorrei anche dire che questa riforma delle superiori corrisponde ad una necessità di mettere ordine in una moltiplicazione di indirizzi che oggi fa sì che ce ne siano più di 300, cioè siamo di fronte ad una confusione rispetto alla quale già il precedente governo aveva iniziato a lavorare per mettere, come dire, un minimo di ordine, di definizione degli indirizzi fondamentali. E devo dire che se c'è un sistema che funziona è sicuramente quello dei licei, quindi noi abbiamo fatto piccoli aggiustamenti su questo sistema. Abbiamo puntato molto invece sulla riforma dell'istruzione tecnica, tecnica e professionale, perché io credo che forse servano meno laureati in scienze delle comunicazioni e più tecnici che sono richiesti dalle aziende. Confindustria diceva che sono 70.000 i profili tecnici richiesti che la scuola non fornisce all'impresa. Ecco, parlando della Germania, nel secondo dopoguerra, un sistema che rimaneva fedele alla vecchia impostazione prebellica, quella in cui la formazione tecnica era un canale di formazione assolutamente di dignità uguale a quello del più alto canale di formazione liceale e tenuto in costante evoluzione coordinata con le richieste delle imprese, con formazione nell'impresa e nel percorso formativo. Questo ha caratterizzato il sistema della formazione professionale alla tedesca. Il risultato è un sistema di formazione da cui sia le aziende che il percorso di inserimento sociale, di miglioramento dei redditi delle categorie che hanno più basso reddito e magari anche fatica di integrazione, perché è classicamente uno dei canali di formazione preferito, sto parlando sempre della Germania, dagli immigrati, ha consentito migliori risultati sia di occupazione che di qualità dell'offerta e della domanda di lavoro iniziale per i giovani, sia di successo maggiore di inserimento sociale di immigrati. Nel nostro paese quel canale lo abbiamo trascurato negli anni 60-70 per la licealizzazione. Risultato, secondo me, siamo rimasti indietro. Ecco, signor Ministro, cosa si può fare per recuperare alcuni di quegli elementi? Non si tratta di copiare o importare, ogni paese è diverso, ma per recuperare alcuni di quegli elementi di quel modello. Ma io penso che innanzitutto si tratti di una battaglia culturale, cioè noi dobbiamo uscire da questo luogo comune che vuole il sistema dei licei come la scuola di serie A e l'istruzione tecnica una scuola, come dire, mediocre, di basso profilo. In realtà sono due sistemi che hanno vocazioni diverse, hanno obiettivi differenti, ma che hanno la loro specificità e hanno pari dignità. Occorre spiegarlo, e noi stiamo facendo una forte campagna di comunicazione e anche di orientamento agli insegnanti in vista dell'entrata in vigore della riforma dal prossimo anno scolastico, perché riteniamo che un nodo da affrontare sia quello della dispersione scolastica. Noi abbiamo il 10% in più rispetto alla media europea di ragazzi che non conseguono un diploma o una qualifica o che si iscrivono all'università e poi non terminano l'università. E allora è bene fare che le famiglie facciano scelte diverse. E vede, io credo che questa dispersione del valore dell'istruzione tecnica sia sempre legata al tema che affrontavamo prima, cioè quello della privatizzazione, perché sembra quasi che creare un collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro equivalga alla privatizzazione, ad una aziendalizzazione della scuola. Invece così non è. In un momento di crisi la scuola, se non vuole essere autoreferenziale, si deve preoccupare di garantire ai ragazzi un percorso professionale e di toglierli da una situazione di precariato ormai diffuso. E allora sicuramente benvenga il decreto che stiamo convertendo al Senato per salvare i precari, ma il problema vero è di non crearne di nuovi. Quindi basta guardare la realtà con occhi trasparenti per rendersi conto che se ci sono 70.000 posti che l'impresa richiede e che non sono coperti, cominciamo a coprire questi 70.000 posti e a offrire personale qualificato. Io credo che piuttosto di tanti laureati che non trovano lavoro è meglio avere dei tecnici specializzati che sono tra l'altro anche ben pagati dalle aziende che possano essere offerti al sistema produttivo. E quindi noi con il ministro Sacconi stiamo lavorando ad un progetto, ad una specie di libro bianco sulla integrazione scuola-lavoro, perché vogliamo ridurre i tempi passaggio dal sistema della scuola a quello del lavoro stesso, vogliamo dare lavoro all'apprendistato e vogliamo coinvolgere le imprese responsabilizzandole, cioè facendo in modo che siano loro a offrire opportunità di stage, di tirocinio anche durante il periodo della scuola e dello studio da parte degli studenti. Stiamo anche mettendo mano al dottorato, perché io incontro troppi ragazzi che hanno conseguito oltre alla laurea il dottorato e che sono frustrati perché quella tipologia di dottorato non ha un particolare valore poi nel mondo del lavoro. Quindi si tratta di fare incontrare la domanda con l'offerta, la scuola con il mondo del lavoro, e questo è lontano dalla privatizzazione e corrisponde ad un'assunzione di responsabilità, direi ad un dovere che noi abbiamo nei confronti degli utenti, perché l'ha detto lei in apertura, si discute di organici, di graduatorie, giustamente anche di come premiare gli insegnanti, dello spazio da dare ai lavoratori all'interno della scuola, ma non ci dobbiamo dimenticare che la scuola è un servizio e quindi deve preoccuparsi innanzitutto dell'utente, che in questo caso è lo studente, che una volta fatto i sacrifici di tipo economico e anche personale per conseguire una qualifica, un diploma, una laurea, ecco, quella qualifica, quel diploma non devono essere dei pezzi di carta, ma devono essere delle opportunità tangibili, concrete, da spendere nel mercato del lavoro. Allora vedrà che ci saranno più matrimoni, ci saranno più figli, i ragazzi usciranno prima dalla famiglia d'origine. Certo che se non ci sono garanzie di occupazione, come può una persona programmare il proprio futuro? Sì, credo anch'io che sia così. Ricordo ai tanti critici che continuano a mandare sms che con l'attuale governo tutto si può dire tranne che ci sia stata una premialità verso le finanze trasferite alle scuole pubbliche, ma non di Stato, perché al contrario, virgola, e non per responsabilità del ministro Gelmini che abbiamo in studio, bensì di quello dell'economia, che è al braccino corto, come è noto, al contrario... Più e più volte si è inciso nei confronti delle dotazioni di questa componente del sistema formativo. Quindi lo dico perché ci sono alcuni degli ascoltatori che ritengono che si sta facendo invece chissà quale regalo alle scuole private paritarie. Non è così nel nostro paese, non è così, e sottolineo tre volte che non è così. Anzi, io do anche atto al ministro che tra le tante difficoltà, oltre a quella di dover giustamente fronteggiare, come capita in un sistema di dialettica democratica, le proteste degli studenti, le proteste degli insegnanti, eccetera, eccetera, tra il ministro, poi tocca pure riservatamente vedersela col ministro dell'economia, che non è stato molto tenero nei confronti delle dotazioni che le sono state date. Le chiedo un'ultima cosa, signor ministro: se lei dovesse dare un bilancio di questi anni di oramai possiamo parlare al plurale, di esercizio della sua responsabilità, se l'aspettava più facile o comunque la dialettica intensa, un po' muscolare, che il mondo della scuola e dell'università le riserva, è qualcosa che la stimola ancora di più? Poi ricordo a chi ci ascolta che il ministro ha annunciato ieri che si sposa ed è in dolce attesa, quindi il fatto di doversi esercitare muscolarmente l'aiuta forse. Ma guardi, non ho mai pensato che il ruolo di ministro dell'istruzione potesse essere facile o rappresentasse una passeggiata. Quello forse che non mi aspettavo era un dibattito improntato ancora a un vizio ideologico di fondo. E soprattutto quello che ho potuto constatare è che accanto alla maggioranza degli italiani che vuole le riforme, che vuole cambiare, ci sono sacche di conservazione che per difendere piccoli privilegi, per paura di affrontare il cambiamento, provocano dei danni enormi al paese e anche al dibattito politico. La cosa che mi spiace di più è che qualche volta i difensori dello status quo, i difensori della conservazione siano i giovani. Quindi se posso così rivolgere un appello agli studenti, ai giovani in generale, è quello di non stare dalla parte di chi difende la conservazione, perché se ci sta che uno che ha 60 anni possa aver vissuto in un certo modo e quindi abbia interesse a mantenere le cose così come stanno, sicuramente l'interesse dei giovani va nella direzione contraria. E se, nonostante tutto quello che si dice, la gente vota ancora Berlusconi, è perché si rende conto che questo governo vuole cambiare. Noi siamo stati eletti per fare le riforme. E mi permetta, direttore, una battuta anche sul tema delle risorse. Non personalizziamo questo fatto, perché il problema non è il ministro Tremonti. No, sono le condizioni delle finanze pubbliche. Esatto, le condizioni, io non lo dico a lei che ovviamente mi può insegnare molte cose su questo punto, però io che non so niente di economia, però come tanti italiani cerco di fare i conti alla fine del mese. Ecco, insomma, non si può pensare di buttar via soldi, cioè questo è un momento di crisi economica, il risparmio è un valore. Certamente. E se oggi l'Italia risponde alla crisi meglio di altri paesi è perché ha risparmiato nel tempo, non ha ceduto alla sofisticazione finanziaria. Allora dobbiamo anche noi, come contribuire. Io adesso devo contribuire. Signor Ministro, devo ringraziarla, ma il tempo è tiranno. Io mi auguro che sia una bambina l'erede. Detto questo, perché io sono per il riequilibrio del potere. Grazie. Viva le donne che hanno responsabilità. Grazie a lei. Appuntamento con i nostri ascoltatori a domani da Linea Generale Radio. Radio 24. La passione si sente.